tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio Luca in redazione, Fabio Cantadore in regia. Oggi sono piacevolmente accompagnato. Tra poco vi presenterò la mia ospite di oggi, ma subito in cronaca al Giro d'Italia. Pieragusto Stagi, sta arrivando alla tappa dello Zoncolan. Chi vince? Ha vinto Igor Anton, spagnolo. Il secondo sta arrivando un altro spagnolo, ha una maglia rosa, si chiama Alberto Contador. Terzo, ottimo terzo, un grandissimo Vincenzo Nibali, che è andato su sullo Zoncolan col suo passo, ha cercato di tenere alto il ritmo e di rispondere agli attacchi di Alberto Contador, che però è molto più scattista ed è riuscito proprio nel finale a guadagnare qualche secondo sul messinese. Paga abbastanza Michele Scarponi, che ha tenuto fino a 4 km dal traguardo. Contador ora sul traguardo con 34 secondi da Anton, arriva Nibali a 39 secondi dal vincitore Igor Anton, che lo ricordiamo è uomo di classifica generale, a 4.02 alla partenza di stamattina da Contador, sempre più leader, sempre più imprendibile. Tappa molto contestata, criticata, poi ne parliamo con calma dopo le 17.15 con Pieragusto Stagi, con gli ospiti che avremo. Sta arrivando, aspettiamo anche l'arrivo di Michele Scarponi. Quanto prende Michele Scarponi dai primi della tappa? 1.10 dunque per Scarponi, e ora arriveranno gli altri. 1.21 Denis Mencho. Arrivano tutti i migliori di classifica, una classifica generale che non cambierà se non per piccoli distacchi, e comunque sempre a favore di Contador. Pieragusto, ci sentiamo tra una decina di minuti, intanto prendi okay. Fiato e compila l'ordine di arrivo e la classifica. A più tardi. A più tardi. Grazie a Pieragusto Stagi, posso presentare la mia ospite, che si chiama Silvia Trovate, la conoscerete, lavora su Eurosport e cura un blog bellissimo, secondo me, si chiama Tacchetti a Spillo, lo sport al femminile, o meglio la visione femminile dello sport. Ciao Silvia, grazie. Ciao Carlo. Ho detto bene? Sì, diciamo che l'idea nasce dal direttore Stefano Benzi, che ad un certo punto ci ha sentito tutte le ragazze della redazione davanti alla macchinetta del caffè parlare di sport e ha detto: perché non facciamo vedere ai nostri utenti quanto possono essere brave le ragazze a parlare di tematiche sportive. E quindi ci ha affidato proprio la gestione di questo sport, partendo da argomenti che riguardavano soltanto le donne, sì, finendo poi a parlare addirittura di calcio. E di ciclismo anche, sì. Per la gioia degli utenti che ci hanno preso di mira, perché non è possibile in Italia che una donna possa parlare di sport. No, le donne devono parlare di sport e voglio sentirle anche al telefono oggi, 800 24 00 24, tutte invitate. Ripeto, Anton vince la tappa dello Zoncolan, tappa che è stata mutilata perché è stato annullato il Crostis ieri, quindi tappa che era di 210 km, tra l'altro molto lunga, la più dura del Giro d'Italia. Poi oggi un nuovo accorciamento con il Tualis, per proteste, per possibili proteste da parte di quelli che erano su Crostis, hanno detto: ma come, adesso siamo qui, il giro non arriva, possiamo bloccare la corsa. Insomma, un po' di casino al giro. E dunque qualche polemica, ma la tappa è stata vinta da Anton, Contador secondo, ottimo terzo Vincenzo Nibali, quarto Scarponi, i distacchi sono minimi, la classifica generale non cambia e poi ne parliamo insieme. Tu sai che c'è un altro Giro d'Italia che noi seguiamo con attenzione, non lo sai? Allora te lo racconto io, c'è Andrea Zorzi che sta... allora, una settimana fa il Giro d'Italia era sull'Etna, Andrea Zorzi in Sicilia è arrivato l'altro ieri e poi adesso è al Pollino, dove il Giro d'Italia è appena passato, magari ha trovato con le tracce di sport anche tracce di giro, non lo so. Andrea, ciao. Ho trovato qualche ciclista, ma andava un po' lentamente, secondo me non era uno dal Giro d'Italia. Non era uno un gruppo... Forse era uno che è rimasto indietro. No, c'era un gruppo bellissimo invece di cicloamatori, con tanto di valigiotti che andavano in giro in un posto meraviglioso, questo Parco del Pollino, a parte che tra i più grandi d'Europa, poi è proprio in mezzo tra Calabria, Basilicata e Campania ed è un posto meraviglioso. Ma siamo finiti qua, Carlo, perché noi abbiamo cercato il luogo dello sport che ha fatto l'Italia in Calabria. Ed è un po' complicato, nel senso che non c'è nessuna squadra di sport che abbia vinto uno scudetto. Sì. C'entra l'uno per la verità, la pallavolo a Reggio Calabria Medinex, ma poi lo hanno annullato perché c'erano stati dei problemi di tesseramento. E quindi è difficile un po' trovare un luogo di quelli a cui siamo abituati che possa raccontare lo spirito, l'anima di questa zona. A quel punto l'idea è stata quella che in questo parco bellissimo ci sono un sacco di attività che sono collegate allo sport, anche se non è lo sport codificato, che sono le passeggiate, orientieri in canoe, in rafting, sommozzatori e via dicendo, naturalmente a pochi metri da qui sommozzatori perché sul Pollino non c'è proprio un grande mare, e quindi l'idea è quella di collegare in qualche modo anche attraverso lo sport un luogo splendido che sta pian piano trovando la sua modalità per crescere. È chiaro che non è un luogo di sport come è stato lo Stadio Amsicola a Cagliari o come sono state la Targa Florio in Sicilia o come era due giorni fa il Palapriolo in quella città, però qui devo dire che c'è l'opportunità di fare un'operazione che secondo me è fondamentale, di tornare a fare sport all'aperto, di tornare a farlo nei luoghi di cui l'Italia è ricchissima, sì, e di farlo con normalità. Sarebbe veramente uno stimolo straordinario, con sì, tutte, certo, e qui lo dico, le resistenze che anche i locali qualche volta mettono in atto. Beh, sai, per noi è un po' fuori mano, ma qui da Milano, ma è un luogo davvero, davvero fantastico. Hai capito, Silvia? Sei andato via tu, Andrea, io mi sono trovato altre compagnie. Capito che il Giro d'Italia sta facendo Zorro? Poveretto, un po' sfortunato mi sembra. Zorro? Zorro. Una sfortuna, guarda. Nonostante il nome. Nonostante l'invito a venire con noi, tu non vuoi mai mollare gli studi a cui No. Sono incatenato al microfono, Andrea. Non mi mollano, ho il collarino. Senti, dove vai domani? Domani in un altro posto, andiamo a Matera domani. Matera, città dei Sassi, ci sentiamo da lì allora? Assolutamente. Che cosa mi porti da Matera? Domani ti racconto questa cosa bellissima, l'intervista fatta a Barbolini, allenatore della nazionale di pallavolo femminile, che però ha vinto 3 o 4 scudetti a Matera, sì. Mi raccontava di come il Pala Sassi, guarda la fantasia di chi ha dato il nome a quel palazzetto, sia davvero un mix della parte sportiva che si gioca lì dentro, ma della città intera che è magica. Lui diceva è straordinario stare in un luogo nel quale tutti i giorni sei in un posto magico. Matera è questo ed è conosciutissimo a livello mondiale, ma quando ci si va non si può resistere a quello spirito, a quell'anima che è l'anima. Grazie Andrea, a domani. Ciao a tutti, buona giornata. Allora, io ho una classifica di tappa parziale ancora sul... la tappa dello Zoncolan, dunque vince Anton Contador a 33 secondi, Nibali a 40, Scarponi a 1,11 dal vincitore, naturalmente Menchov a 1,21. Come vedete, tutti uomini di classifica, una classifica generale che non cambia poi tantissimo. Oggi è stato anche il giorno, ed è uno degli argomenti di giornata, poi sentiamo cosa hanno da dire gli ascoltatori, è anche il giorno per la cronaca in cui Gigi Del Neri ha detto ciao a tutti. Silvia. Sì, ma era prevedibile. Ma chi non se l'aspettava? Diciamo che la Juventus andrà sorpresa, tutta rifatta, mi sembra, per come ha gestito il campionato. Cioè, non si tratta di cambiare l'allenatore, sembra che vada rifatta proprio tutta la vecchia signora. Ha detto così Del Neri. Sentiamolo insieme, conferenza stampa di oggi. Juventus cambia allenatore, sono informato di questo, quindi... Sì, quindi... faccio un bocca al lupo a chi verrà, insomma, io non so chi viene, non è che mi... speriamo sia una scelta giusta, come al solito nel mondo del calcio, quando si chiude si cerca sempre di fare per il meglio, spero di trovare anch'io una soluzione. La soluzione si dice sempre che se si chiude una porta si apre un portone, quindi, sta mai nella vita, vediamo un po' cosa succede, insomma. Quando è che sei stato informato? È logico, è lecito anche questo, non è? L'importante è che io sia io a posto con me stesso, poi ognuno di noi è libero di fare e di decidere quello che pensa sia più giusto. Questo era Del Neri, che sorpresona, Silvia? Sì. Cioè, poi se pensiamo che Mazzarri fra un po' se ne va dal Napoli, era abbastanza scontato. No, che... non va più. Non se ne va più? No, ho già detto, ma va, abbiamo scherzato. Avete scherzato. Poi vi facciamo sentire anche Mazzarri che adesso, no, dove volete che vada? Adesso resto qui. Sicurissimo. La Juventus quindi va a Conte e lui dice, no, io sono qui. Io sono ancora qui, sai, Vasco Rossi, no? Sì, sì. È ancora lì anche Mazzarri. Ci fermiamo per il traffico, subito dopo apriamo la pagina del ciclismo per parlare con calma di questa tappa che si sta ancora chiudendo sullo Zoncolan, ma i big sono arrivati tutti con la vittoria di Antone, con Contador che blinda sempre di più quella maglia rosa che porta addosso. Ne parliamo dopo il traffico. Voci dal Giro. Rieccoci, sempre con me Silvia Trovato e sempre con noi Pier Augusto Stagi dalla grande montagna, dallo Zoncolan. Sto vedendo le sovrimpressioni di classifica generale, caro Pier Augusto. C'è Anton che mi pare si sia arrampicato al terzo posto. Si è arrampicato al terzo posto ed è a solo un secondo da Vincenzo Nibali, che oggi comunque ha fatto veramente una grandissima tappa, innegabilmente è stato protagonista, forse non ci si aspettava neanche che andasse così forte e così bene. Gli manca lo scatto, gli manca il cambio, la variazione di ritmo, come si dice in gergo tecnico. Lui è un grandissimo passista e ha scelto il passo per poter contrastare lo strapotere di Igor Anton, che è scalatore puro, che è uno dei più grossi e grandi scalatori al mondo, e Alberto Contador, che ha giocato così a far stancare un po' gli avversari, ha controllato la situazione e nel finale ha cercato di portare a casa qualche secondo, poco devo dire rispetto a quello che magari lui si aspettava, però diciamo che oggi la giornata è abbastanza positiva per i colori azzurri. Sì, certo. Sì, meglio di quella di ieri, meglio di quella di ieri, però insomma stiamo sempre parlando di corsa verso un secondo posto che poi ha il suo senso, considerando anche che tra il 7 e l'8, se non ricordo male, c'è questo giudizio che pende sul capo di Contador, quindi in fieri, in divenire, quel secondo posto è molto importante. Dio non voglia, naturalmente, Dio non voglia, perché Contador a questo giro lo stramerita, è un campione straordinario, formidabile, e c'è questo giudizio pendente, dunque questa spada di Damocle su di lui e sul Giro d'Italia intero. Silvia, come lo guardano il ciclismo le donne? Non tantissimo, mi pare, non è uno sport, non tantissimo, molto, noi guardiamo con occhio sensibile alle cadute, al ciclista morto purtroppo ci rivolgiamo più che altro ad argomenti drammatici, siamo delle sentimentali, no? Per quanto mi riguarda tifo Nibali, non peraltro sono siciliana, quindi sì, figurati. Poi sono... Ma sei delusa dal Giro d'Italia di Nibali? Cioè ti aspettavi potesse combattere con Contador in un duello che non c'è mai stato, di no, fatto? No, in realtà no, no. Sono abbastanza realista, poi è anche caduto sull'Etna, quindi secondo me si è anche ripreso alla grande. Sì. Quindi va bene così. Però almeno sull'Etna una vittoria poteva starci. Eh sì, magari anche solo per il tifo che aveva. Esatto. Esatto. Io voglio parlare invece di questa tappa un po' mutilata. Cos'è successo, Piero Augusto, di preciso? È successo che hanno dovuto tagliare ulteriormente il percorso perché c'era una protesta dei friulani che hanno lavorato davvero come dei matti per rendere sicuro il Crostis. Sì. Veramente hanno fatto un lavoro immane, bisogna dirlo. Abbiamo visto. Cioè, Crostis che è stato, ricordiamo, riepiloghiamo le tappe, è stato cancellato ieri, e perché? Ieri è stato cancellato intorno alle 19.30, il presidente di giuria, su pressione di Bjarne Risse, che è il team manager della Saxo Bank, il team manager di Alberto Contador per intenderci, sì, ma anche di Johan Bruinel, che è un altro team manager molto influente, diciamo l'uomo di Lance Armstrong, sì, di Radio Shack, hanno fatto veramente una grande pressione a livello politico all'UCI e alla fine hanno vinto il braccio di ferro. Loro non hanno tanto bloccato la discesa per questioni di sicurezza, ma per questioni di sportività, perché loro mettevano in dubbio che per 37 chilometri i corridori rimanevano senza assistenza tecnica, sì, e quindi c'è. E quindi non hanno voluto fare quel colle. Io voglio capire. Non si può perdere un Giro d'Italia per una, appunto, la mancanza. Sì, sì, no, questo può anche essere legittimo. Io voglio un parere dal nostro commentatore di eccezione di questi giorni, cioè il presidente della Mapei, Giorgio Squinzi, che magari si è trovato quando guidava quella squadra in situazioni del genere. Voglio però sentire un parere. Presidente, buongiorno. Sì, buongiorno. Questa mutilazione della tappa, che ne pensa lei? Ma io penso che le ragioni erano equamente distribuite, però penso che si sarebbe potuto fare tranquillamente senza andare incontro a grandissimi problemi. Certo è venuta a fare una corsa monca in questo modo, eh? Sì, è venuta fuori una corsa monca anche perché è venuta a mancare una parte essenziale, e poi non dimentichiamo che questa tappa, oltre ad essere durissima, era anche molto lunga, 210 km, così sono diventati 190. Quindi non è del tutto legittimo, lei dice, Presidente, non è del tutto giustificata questa, questa motivazione. Le contestazioni erano da fare prima, no? Certo. Lei dice lo sapevano già. Prima della tappa, lo sapevano perché più o meno tutte le squadre avevano provato la tappa e nessuno aveva protestato, insomma, quindi mi sembra che sia stata abbastanza pretestuosa questa dal lato dell'USEI l'annullamento e poi le successive controproteste. Non una bella pagina di sport. Non una bella pagina di sport, ha ragione. Invece, per quanto riguarda lo sport, questa arrampicata allo Zoncolan, beh, Anton bravissimo, Contador ha legittimato la maglia rosa, Nibali bravo oggi però. Nibali bravo, anche se poi dobbiamo porci sempre la domanda quanto abbia realmente aperto l'acceleratore Alberto Contador. L'impressione è che anche oggi avrebbe potuto fare quello che voleva e andarsene in qualunque momento, come poi ha fatto nel finale. E comunque la prestazione di Igor Anton è stata certamente notevole, ha dimostrato di essere, dopo Contador, lo scalatore più importante al giro. Sì. E Nibali, salendo più o meno col suo passo, comunque si è difeso decentemente bene, dai. Decentemente bene, lei dice. Presidente, la ringrazio. Io l'aspetto domani, se possibile, se riusciamo, per l'ultima grande montagna di questo trittico, per l'incoronazione da lei prevista dello spagnolo. Certamente. Purtroppo era troppo facile questo pronostico, insomma, non c'è stata veramente battaglia. Però... sul piano sportivo non è stato certamente non c'è stata molta incertezza, insomma. Però magari parliamo anche di un duello che si intravede all'orizzonte, cioè quello tra Contador e Ivan Basso al Tour de France. Speriamo che Ivan ci arrivi al meglio, anche se poi, considerando un po' tutte le vicende, non so se il Contador ci sarà, insomma. E questo sarà un altro grande argomento che trattiamo i primi di giugno, perché è stata fissata grosso modo la data di quella fatidica udienza. Presidente, grazie, buon lavoro, a presto, a domani. Grazie. Pier Augusto, tu che cosa immagini possa succedere in quei giorni, primi giorni di giugno, onestamente? Ma onestamente io credo che il TAS riconoscerà la colpevolezza di Alberto Contador e credo e penso che gli infliggerà un anno di squalifica, quindi gli perderà il Tour de France dell'anno scorso, però gli lascerà probabilmente il giro, come è giusto, il giro di quest'anno, perché probabilmente la squalifica partirà, metti, se ci sarà diciamo la sentenza il 29 di giugno, perché si riuniranno in tre giorni il 6, il 7 e l'8 per ascoltare le parti e raccogliere tutti i materiali che poi saranno valutati, entro la fine di giugno loro si esprimeranno e io credo che la squalifica partirà dalla fine di giugno fino al giugno del 2012, quindi non correrà secondo me il Tour de France, ma se vincerà a Milano il Giro d'Italia non glielo toccherà nessuno ed è giusto che sia così. Certo, ecco. Certo. Se non fosse così sarebbe veramente, usando un linguaggio un po' così amichevole, una burletta, perché già rasentiamo il ridicolo, perché non si può arrivare a un anno di distanza senza sapere chi ha vinto il Tour de France nel 2010. Anche se siamo abituati negli ultimi anni, i vincitori delle grandi corse a tappe sono sub iudice quasi per definizione, quasi per assioma, no? Si mette sempre l'asterisco e poi si spera nel Signore. Però che non ci sia. Per una volta gli italiani insegnano e devo dire che sportivamente parlando e ciclisticamente ancora di più, l'Italia i suoi corridori li ha fermati subito, li ha giudicati immediatamente, ha distribuito a tutti i più forti corridori italiani le loro pene e il Giro d'Italia 2010 non è stato assolutamente sfiorato da nessun problema. Sì. E l'ordine d'arrivo è, diciamo, è andato per la storia immediatamente. È andato sugli almanacchi immediatamente, una volta tanto, perché negli ultimi anni comunque siamo stati abituati a verdetti subito. Cioè, detto questo, hai ragione, perché insomma la strada l'abbiamo tracciata e siamo stati bravissimi. Sul resto della giustizia sportiva internazionale ci sarebbe da dire. Pier Augusto, ti ringrazio, ci sentiamo più tardi dopo il GR delle 19. Grazie Pier Augusto Stagio. Queste storie di doping, Silvia, interessano o no? Tantissimo, diciamo che da Pantani in poi ci sono un sacco di pregiudizi nei confronti del ciclismo e purtroppo questo sport è caratterizzato ogni anno dall'ennesimo caso, per cui non ci stupiamo di niente. E purtroppo si aprono anche diversi casi con tutta una serie di giornalisti che non fanno che attaccare questi poveri ciclisti, che certe volte secondo me sono anche manipolati da agenti medici che a loro insaputa gli iniettano. A loro insaputa non credo proprio. Certamente sono, tu dici manipolati, dico certamente molto monitorati, molto sorvegliati. Sì, perché sì, poi si può aprire il solito capitolo e va bene, li beccano, però da altre parti manco ricercano. Certo, no? Certo, assolutamente sì. Sono molto presi di mira, diciamo, i ciclisti. Sì. No, io spero, ti dico la verità, di vedere il duello basso Contador al Tour de France, che potrebbe anche non esserci. Sì, a questo punto è improbabile, non lo so. Speriamo di sì. Dicono sia improbabile, primi di giugno lo scopriamo e sportivamente sarebbe un peccato. Sì. Dall'altro lato vuol dire che al nostro gli levano l'avversario principale, quindi ovvio, un po' ci freghiamo le zampe. Dunque ci fermiamo qui, dopo la pausa che ci attende io vorrei cominciare a parlare un po' di storie di calcio di oggi, soprattutto con Del Neri, l'avete sentito prima, ciao alla Juventus, mercoledì mi hanno detto che non avrei più allenato, in realtà gliel'hanno detto qualche tempo fa, lo sapeva già da facciamo una ventina di giorni, dicono i ben informati. E oggi però alla vigilia dell'ultima di campionato, irrilevante secondo me per la Juventus al di là dei giochini matematici che si possono fare, Del Neri dice non allenerò più la Juventus. C'è anche Conte che ha detto non ho firmato niente, sono ancora allenatore del Siena, lusingato, l'interesse della Juve. Comunque sarà Conte nuovo allenatore della Juventus, scelta che mi lascia un po' perplesso in prospettiva juventina, non so a te Silvia, ma poi ne parliamo. Conta la Juve, cosa dici? Ma secondo me va rifatta la Juve, cioè, a prescindere dal trascinatore. E il trascinatore conticchia. Sì, bisogna rifare un po' tutta la Juve, si salva Del Piero che è stranamente anche il più vecchio, quindi sì. Bisogna trovare nel vivaio magari qualcuno che riporti i bianconeri in alto in classifica. Nel vivaio sul mercato, intanto arriva Pirlo che è già della Juventus, manca solo ufficialità, ma anche oggi Allegri ha detto la Juventus ha fatto un grande affare nel prendere Pirlo, con me è finito ai margini, però non per colpa mia perché ci contavo, chissà se è vero, ci fermiamo un attimo. Eccoci di nuovo qui, 800 24 00 24, se ci volete venire a trovare questo sabato molto interessante sportivamente parlando secondo me e secondo Silvia Trovato che mi accompagna oggi per darmi anche una visione femminile con il suo tacchetti a spillo blog che trovate sul sito di Eurosport di questo momento che per la cronaca propone l'addio di Del Neri, ne abbiamo parlato e ne parleremo. Che propone insomma voci interessanti che oggi, ultima conferenza stampa dell'anno, si è parlato grosso modo di mercato. Vi farò sentire Mazzari che dice io sono ancora qui come Vasco Rossi, no? Resto qui a Napoli. C'è Allegri che saluta Pirlo e dice alla Juventus farai bene, ti avrei voluto ma quest'anno hai preso un anno sabbatico, ha detto Allegri, che poi sentiamo. E c'è Leonardo che parla esclusivamente di mercato, Sanchez dall'Udinese arriverà, poi dice Tevez perché no, sono giocatori che ci interessano eccetera eccetera. Sanchez all'Inter però mi pare cosa fatta. Poi per la cronaca c'è anche la Serie B di cui vi do i risultati istantaneamente. Dopo Empoli-Torino 1-1 di ieri, Atalanta-Cittadella 2-2, Crotone-Grosseto 0-0, il Sassuolo che vince 2-1 a Frosinone, Modena batte Portogruaro 3-1, Padova batte Livorno 3-2, risultato molto importante in prospettiva playoff, come la vittoria del Novara 2-1 a Pescara, l'Albino Leffe vince 3-1 a Piacenza, Regina Ascoli 0-0, Vicenza che espugna Trieste 1-0, lunedì si gioca il posticipo tra Siena già promosso e Varese che sta inseguendo i playoff. Atalanta e Siena sono promosse appunto con 78 e 74 punti rispettivamente, Novara 70, Varese 65 al momento, Regina 61, Padova 59, Torino 58, Empoli 56 insieme a Livorno, Pescara e Vicenza 53 in coda, Frosinone 38, Portogruaro e Triestina 40 e i giochi mi sembrano fatti, Piacenza, Albino Leffe e Ascoli 46 punti. Questi verdetti della giornata di Serie B. Sempre per la cronaca c'è la griglia di partenza della Spagna che non propone alcuna novità di alcun tipo, perché Mark Webber, che già ieri era stato il più veloce, ha fatto la pole position, vicino a lui Sebastian Vettel, e chi le prende più queste Red Bull? Nessuno. terzo tempo, e anche qui è la terza forza di questa stagione per Lewis Hamilton, soliti problemi in prova per la Ferrari. Alonso quarto, bravissimo, perché ci prova con tutte le sue forze. Terza fila Button, Petrov, quarta per Rosberg e Massa, quinta per Maldonado e Michael Schumacher, e via dicendo. Ferrari che non potrà montare l'ala mobile provata venerdì, perché la FIA ha detto quella non va bene, non è regolare, quindi smontatela e rimettete quella di prima. Poveretti. Ferrari, quest'anno. No, hanno una macchina inferiore agli altri. Sì, l'avevano pubblicizzata come l'evento dell'anno e in realtà si è rivelato un flop. Sì, si sta rivelando un flop, sì. Poi recupererà, però bisogna vedere quando. Sì, magari se si sbrigano. Interessa più la Formula 1 o il moto mondiale alle signore? Moto mondiale, diciamo che Valentino Rossi è più simpatico di Alonso. Alonso non è antipatico. Ma è bello, diciamo che è figo, come diciamo, sì, qua a Milano, però Valentino è simpatico. Valentino ha tutto. È simpatico, vabbè, simpatico, è romagnolo. anche Francesco da Rimini che è in linea, buongiorno. Sì, ciao, buonasera. Ciao. Buonasera, grazie per avermi richiamato. Grazie a te. Dimmi tutto. Ah, niente, io volevo proporre volevo lanciare questo messaggio. Spesso si sente parlare di doping sul ciclismo e si abbina spesso anche la figura di Pantani. Ricordiamoci che Pantani, per la cronaca, non fu mai trovato positivo al doping. Pantani gli contestarono il valore di ematocrito alto. Sicuro. Che tra l'altro, con l'attuale legge che c'è adesso, con le attuali regole che ci sono adesso, sarebbe ampiamente dentro i limiti. Quindi sì, però Francesco, hai ragione, però contavano i limiti che c'erano allora, tanto per cominciare, ma anche Basso non è mai stato trovato positivo all'antidoping, eppure è stato penalizzato non poco, no? Sì, sì, però poi vabbè, Pantani ha avuto una storia che non ha saputo più risollevarsi, però Marco era forte, ecco, cioè, era il più forte. Era il più forte. Era il più forte, esattamente come Contador è il più forte adesso. Sì, l'anno che vinse Tour e Giro. Non ricordiamoci anche che passò indenne a tutto lo scandalo doping che ci fu in Francia con tutte le squadre, sì, francesi, sì. Sì, sì. Cominciata da Virenc, Lemblanc, eccetera. Quindi, cioè, se fosse stato una persona che faceva uso di doping, sicuramente non gli avrebbero fatto vincere il Tour. Cioè, un italiano che va a vincere il Tour, sì, con lo scandalo doping in Francia, sicuramente Pantani sarebbe stato, sì, messo fuori. Beh, insomma, ci sarebbero tante cose da dire. Non possiamo neanche chiuderci gli occhi e dire è stato assolutamente vittima del sistema. Le sue cose le ha fatte anche lui, lo sappiamo, no? Le sue cose. Però quello che tu hai ragione nel dire, vinceva perché era il più forte, e sono perfettamente d'accordo con te. Non accetto, o meglio, le accetto e poi contesto repliche contrarie, dicono vinceva perché faceva uso di quello che sappiamo, non la cocaina naturalmente, ma tutto il resto. Vinceva perché era il più forte, esattamente come Contador vince perché è il più forte. Poi sul resto, il resto secondo me sono solo chiacchiere. Insomma, Pantani non morirà mai nel cuore di Francesco, mio, di moltissimi, non solo nel tuo. Diciamo che ha pubblicizzato più di ogni altro il ciclismo in Italia, anche chi era assolutamente distante da questo sport, grazie a lui, alla sua vicenda, anche alle problematiche che ha avuto dopo, e si è avvicinato a questo sport. Sì. Quindi è assolutamente un grande, a prescindere da quello che si può dire o non si può dire. Senti Silvia, adesso sentiamo qualche voce. Del Neri l'abbiamo sentito, no? L'abbiamo sentito prima, ma ha detto mercoledì, mi hanno detto non alleno più la Juventus, prendano chi vogliono, io ho la coscienza a posto, dice lui. Sì. Ho fatto tutto quello che dovevo, ma questa è sempre stata la sua linea difensiva, anche quando, mi sembra due settimane fa, non più tardi, diceva quante percentuali hai di rimanere alla Juventus? 100%, sapeva benissimo che non era così, perché già allora lo sapeva naturalmente. Preferisci sentire Vasco Rossi o Mazzarri? Vasco Rossi, però ti faccio sentire Mazzarri. Mazzarri cosa ha detto oggi? Io sono allenatore del Napoli, farò quello che devo fare, allenare al meglio la squadra che mi metterà a disposizione la società. Uno che fa il mestiere come lo faccio io ha bisogno di verificare ogni tanto, no? Dopo due mesi di can-can sulle mie parole, che poi fanno tutti gli altri allenatori su di me, si è scatenato un putiferio ad arte molte volte, i tifosi sono andati dritti per la sua strada, perché fra me e i tifosi c'è un rispetto, una credibilità, un affetto, e più si potrebbero aggiungere tanti altri termini, che l'hanno dimostrato domenica, nonostante che tanti aspettavano chissà cosa, è stata un'apoteosi, e questo è quello che mi interessa, e quello che mi dà forza, e per loro ci potrei stare tutta la vita a Napoli. Così Mazzarri, volendo essere maliziosi, come voi donne riuscite a essere benissimo, siete bravissime in questo, siete bravissime in questo, volendo essere maliziosi si potrebbe dire: adesso che alla Juventus hanno preso un altro, facciamo marci indietro. Eh sì, però io non sono maliziosa per niente, e ti dico che i napoletani sono completamente impazziti per il Napoli. Non so se hai letto, io ho scritto un pezzo nel quale parlo della salsiccia che è nata a Napoli, ispirata a Cavani, gli occhiali che sono in vendita, che si ispirano a quelli di Mazzarri. Quindi è reale questo tifo sfrenato nei confronti dell'allenatore. Ci mancherebbe altro. E ci posso credere che lui sia affezionatissimo alla maglia azzurra. Allora vuol dire che sono più malizioso. Sei più malizioso tu, secondo me. Mi tengo la mia malizia e non faccio retromarcia. Non so i miei ascoltatori, che comunque sono maliziosetti. 800 24 00 24 è il numero verde. Allora, l'addio a Pirlo, l'addio di Pirlo, l'addio di Pirlo al Milan, del Milan a Pirlo, eccetera eccetera. Ti faccio sentire cosa ha detto oggi Allegri sul suo ormai ex giocatore. La Juve ha fatto un grande acquisto, perché Andrea è un giocatore importante, però purtroppo vanno fatte delle scelte, e non è stata oltre una scelta mia, è stata anche una scelta del giocatore, della società, e quindi le strade si sono divise. E Andrea, come l'ho detto ieri, sicuramente farà grandi cose alla Juventus. Quest'anno per lui è stato, tra virgolette, un anno sabbatico, perché dopo tanti anni dove ha fatto, dove ha giocato 50 partite l'anno, quest'anno purtroppo per i vari infortuni ne ha saltate molte, soprattutto da ottobre in poi, perché fino a ottobre aveva giocato, era quello che aveva giocato più di tutti, quindi non si può dire che è un giocatore su cui non contavo. Poi purtroppo l'annata ha preso una piega diversa, e gli infortuni, i vari infortuni uno dietro l'altro, hanno fatto sì che è rimasto ai bordi della squadra fino alla fine, anche perché è rientrato in Coppa Italia dopo 4 mesi di assenza. Questo ha detto Allegri. Anche qui vorrei essere malizioso, un giocatore su cui contavo, sarà vero o no? Ma diciamo che avendo il Boa, il Pato, Ibrahimovic, Cassano, non penso che contasse così tanto Pirlo. Magari all'inizio, poi il Milan si è emancipato. Sì, da sì, poi si è emancipato e evidentemente non contava più. Adesso la Juventus ha ragione Allegri oppure no nel dire farà benissimo? Ma io non ci credo così tanto, non punterei su quel cavallo lì. Tu ci punteresti qualcosa? È un grande giocatore, è un grande giocatore con un contratto molto pesante, che probabilmente il Milan, insomma, avranno anche fatto i loro conti. Certo è il giocatore di grande esperienza, ha sempre 32 anni, ha avuto una stagione da reduce delle grandi guerre, quindi sempre in infermeria e ai bordi della squadra, ai margini della squadra. Non so, di sicuro è più bravo di tutti gli altri che ha la Juventus adesso. Sì, quello sicuro. Ma non ci vuole tantissimo. Quindi, in linea di massima, in linea di teorica, ha ragione Allegri. Certo, Pirlo non può bastare per passare dalle stalle di questo campionato ad altri posti. Ci fermiamo per il traffico, poi continuiamo a chiacchierare insieme. 800 24 00 24, se volete intervenire, siamo qui. Allora, Silvia Trovato, che ne pensi invece di Leonardo, che io credo, insomma, sarà uno dei preferiti tra le tue lettrici, o no? Ti posso dire la verità? Sì, preferivano Mourinho. Sì. Allegri? Allegri dal punto di vista femminile, proprio dal punto di vista estetico. Piace Allegri? Beh, simpatico, diciamo che la parlata fiorentina. Guarda, non ti sbilanci, dai, ovvia. C'è un messaggio che è questo. Beh, a parte Cristiano da Cagliari, però che stile Max Allegri, va bene, lo mettiamo agli atti, lo mandiamo agli atti. Però c'è questo più interessante, Luigi da Milano, che scrive: ma su che basi credi che Sanchez vada all'Inter davvero? Che ne pensi di Tevez? Io da tifoso interista non lo vorrei, piantagrane sopravvalutato, eccetera eccetera. Su che basi credo che Sanchez vada all'Inter? Vabbè, l'ha detto anche oggi Leonardo, più o meno, no? È un giocatore che mi piace, un ragazzo che mi piace, e credo che è un ruolo molto, molto difficile. Se andiamo a vedere oggi, i terzini non sono facili da trovare. Se riesce a trovare in casa, credo che sia una cosa molto, molto bella. E credo anche che lui abbia la possibilità di crescere qui, diventare un giocatore, diciamo, importante per l'Inter. Dunque, su, tra le altre cose, per l'appunto, Leonardo ha detto: Sanchez è un giocatore che ci interessa, come ci interessa, come ci interessa Tevez. Io credo che Sanchez sia dell'Inter già da un po'. C'è anche questa brutta notizia per l'Inter oggi: strappa Cambiasso, o comunque infortunio serio, non giocherà la finale di Coppa Italia, probabilmente nemmeno la Coppa America di luglio. Sanchez all'Inter, Tevez all'Inter, come li vedi? Ma l'Inter secondo me ha bisogno di personaggi del genere, e per quanto riguarda le certezze c'è da aspettare. Secondo me Sanchez ci siamo già. Sì, Sanchez e... siamo già, si sta trattando la contropartita, ma anche lì siamo ai dettagli. Sì, sì, sì, sì, sì. Tevez è un piantagrane? Io non credo, non è mai stato un piantagrane più di altri, insomma, nelle squadre che ha attraversato. Credo che sarebbe un giocatore funzionale all'Inter invece, e ai programmi dell'Inter. Quest'anno la principale mancanza è stata, risalendo all'inizio della stagione, il fatto che Balotelli, che era un giocatore anche tatticamente molto importante, è andato via, non è arrivato una punta con quelle caratteristiche, un backup dei titolari. Poi Milito, la stagione che ha fatto la conosciamo, dunque è un tassello da riempire, quello, mi pare, e credo che Tevez possa essere il giocatore corretto. Tornando alla Juventus, insomma, segreto di Pulcinella, Antonio Conte andrà ad allenarla. Dicevi tu su Conte? Ma su Conte dicevo che, a parte l'allenatore, bisogna rifare la squadra, e quindi sì. Così come, per quanto mi riguarda, io penso che l'Inter l'anno scorso, anche senza Mourinho, avrebbe potuto vincere. Perché secondo me era formata veramente dai più grandi come squadra. Allo stesso modo la Juventus, se solo cambiamo l'allenatore, non è che riesca a fare grandi cose. Dobbiamo spendere dei soldi e rifarla un po' tutta. Sì. Perché sennò ci sarà l'ennesima vittima che verrà sostituita. Ma poi io continuo a pensare che alla Juventus in questo momento storico servisse un allenatore di maggiore carisma. È vero che Conte piace moltissimo ai tifosi, che hanno come al solito un peso eccessivo, secondo me, nelle scelte del club. Guarda, ti dico, può essere l'idea giusta Antonio Conte, ma se gli affianchiamo non un tutor, ma ad esempio dietro una scrivania, direttore generale, quello che vuoi, il titolo poi lo si sceglie, ad esempio uno come Lippi, no? Uno sì. Come Lippi, che è in grado di fare da parafulmine, che ha carisma, che ha conseguito risultati, che può parlare in maniera autorevole a nome della Juventus, ecco che allora quella è una coppia che potrebbe funzionare. Antonio Conte e la bufera, sì, anche qui voglio essere malizioso, ci hanno già provato con Ferrara, che pure era una bandiera della Juventus, o comunque piaceva molto, era carico di juventinità, ecco. Non è andata benissimo, magari Conte ha fatto più gavetta, ha un po' più di esperienza, eccetera eccetera, però non mi sembra una scelta molto distante da quella, visto il momento storico della Juventus. Paolo da Terni, che ne pensa? Buonasera. Salve. Innanzitutto complimenti per questa nuova new entry, questa ragazza che ci sta veramente bravissima, bene. Grazie Paolo. Per carità, è dovere Silvia, quello che è giusto non è peccato. Io volevo parlare, io faccio parte del popolo bianco-nero, perciò siamo a stracci, noi sai che è difficile per noi parlare, però io questo Conte, l'idea di Conte a me piace. Perché è vero quello che dice lei, che è giovane, però sa, se lei immagini che se chiamassero Lippi, no? Come suggeriva lei, come tutor, ma è impensabile, lui è uno che non accetterebbe mai, penso, una cosa. No, perché un ruolo dirigenziale? Non sì. Dico tutor, ho usato un'espressione volutamente forte, però un ruolo dirigenziale, se ne è parlato. Ma forse non è il caso. No, io non lo so adesso. Nemmeno io, però sto facendo delle ipotesi. Sto dicendo che alla Juventus comunque manca un capopopolo, no? Uno che sia in grado di parlare con l'opinione pubblica, che sia in grado di tenere a freno gli umori così spesso negativi della tifoseria. Alla Juventus manca un capo carismatico, che secondo me non può essere Antonio Conte. Ma questo io vedremo. Sì, io mi auguro sicuro che vedremo. Certo, perché il problema grande secondo me è bisogna essere anche un pochino fortunati, no? Nel senso che noi abbiamo fatto non noi, chi dirige, chi delle scelte forse non troppo felici. Ma io questo Pirlo 3 milioni e 8 l'anno mi sembra un'esagerazione. Sono d'accordo. Una cosa fuori dal mondo, perché ho fatto il conto, sono 3 per 4, 24 milioni di euro. Sì, con 24 milioni di euro uno ci compra un giocatore del Reale. Ma Pirlo è un top player, no? Cioè è comunque uno dei grandi giocatori del calcio internazionale, quindi i soldi sono quelli. Volevo parlare con Silvia di Tania Cagnotto, ma lo faremo la prossima volta. Dicevi che non andrà alle Olimpiadi, hai seguito questa vicenda? Non è detto che vada, cioè una stagione a rischio per lei, perché l'altro ieri ha avuto un incidente a Bolzano, si è fratturata il polso e la tibia, e quindi verrà sottoposta ad un'operazione ed è probabile che non possa partecipare ai mondiali di Shanghai a luglio e quindi compromettere la qualificazione alle Olimpiadi di Londra. E questa è sfiga vera. Questa è sfiga vera. Silvia, torna a trovarci. D'accordo. Tanto grazie. Per tutta l'estate saremo qui con A Tempo di Sport, tutti i giorni a tenervi compagnia. Io ringrazio Silvia Trovato, vi invito a dare un'occhiata su internet a Tacchetti a Spillo, che è molto gradevole sul serio. E ci sentiamo domani, come sempre, come ogni domenica, dalle 4:30 alle 6, nonostante gli orari bizzarri di quest'ultima giornata di campionato, e poi domani sera dalle 8:30 alle 9 con il basket. Grazie Giorgio Luca in redazione, Fabio Cantadore in regia, ci sentiamo domani.